5E. Ascolta e rispondi. Ti ha raccontato molte storie? Sì, me ne ha raccontate tante. Ti ha fornito molte informazioni? Sì, me ne ha fornite tante. Ti ha presentato molte persone? Sì, me ne ha presentate tante. Ti ha portato molte cose dall'estero? Sì, me ne ha portate tante. Vi hanno comunicato tutti i dati? No, ce ne hanno comunicati solo alcuni. Vi hanno riferito tutti i commenti? No, ce ne hanno riferiti solo alcuni. Vi hanno detto tutti i dettagli? No, ce ne hanno detti solo alcuni. Vi hanno illustrato tutti i loro progetti? No, ce ne hanno illustrati solo alcuni.